21:33, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e tripla www.ondarossa.info. Disorder andrà avanti sino alle ore 23 circa. Prima di iniziare ricordiamo la necessità di sottoscrivere il radioabbonamento per Radio Onda Rossa, questa campagna di crowdfunding. 30 euro appunto per questo radioabbonamento che ci permetterà di andare avanti con la nostra autonomia politica, etica ed anche culturale. Già qualcuno di voi ha aderito e questo li ringrazio, per questo li ringrazio. Abbiamo per esempio Anton Zoviet, Anna, Francesco Cornello ed altri hanno già aderito e li ringrazio. C'è il banner specifico sul sito della radio, si entra dentro e si possono scegliere le varie modalità di adesione. Saluto Marco Milanesio di Disordine, Maia in Sardegna con Nicola Locci, Tiziano Farinacci di Pigreco, Anna, Valerio Michetti della Grazia Obliqua. Un saluto a Orlando Furioso, a Federica Garenna e Frank Marelli del Longs Adieu. Saluto appunto a Francesco Cornello, Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo, Des De Carlo from USA, Doriana Panico a Taranto, Laura. Un saluto a Giuseppe Berticchio di Nim. Naturalmente abbiamo Venusa Zozzitta Stramonio, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico. Un saluto a Paolo Contucci dal settore Roma Est, Simone Scalise di Audio Caos. E Jessica, un saluto anche a lei. Allora, nelle scorse settimane in sede di prove tecniche di trasmissione abbiamo parlato a più riprese di Adriano Vincenti e delle sue varie attività e progetti musicali, tra cui Macelleria Mobile di Mezzanotte. Abbiamo parlato di ossido di cromo, come i più attenti sanno, ma non contento, da qualche anno suona anche con un progetto più o meno neofolk dal nome L'Amara, in compagnia di Vince Aquarian, Johnny Bergman del Calle della Morte, Inner Glory, Giovanni Leonardi di Siegfried de Carnera. Di loro ci andiamo ad ascoltare un mini di tre pezzi dal nome Beautiful Losers, uscito nel settembre nel 2022. Neofolk, ma soprattutto storie di malavita, storie di galera. E diciamo neofolk in senso più ampio del termine, come poi potrete verificare attraverso queste due tracce dal nome Mira Mi Amor e Ballerina di Flamenco. We'll be right back. della luna. Ho sognato di stringerle i fianchi, fremente puledra mai doma. Ho sognato di baciare le sue labbra calde nel bollore di lava del suo bacino. Trema la terra sotto le sue anche, un rito antico e sempre nuovo. È la noce della storia. È la noce della storia. Io ti sento dentro come il vento, ballerina di flamenco. Pugnale che trafigge il tempo, ballerina di flamenco. Particolare questa proposta sonora, si chiama La Mara, due album al loro attivo e un qualche anche EP dei mini, tra cui questo Beautiful Losers, uscito proprio sul finire del 2022. In questa circostanza era anche ospite Simone Salvatori di Spiritual Front. Passeggi dunque acustici con questi ipotetici bar malfamati e fumosi, dove si intrecciano storie di romanticismo ma anche di violenza e di emarginazione, trattenerti con me, ben interpretati da Adriano Vincenti e compagni. Un alito gelido. Ci ritorneremo comunque anche la prossima settimana. Disorder dunque questa sera, come anche succede, è successo anche nel recente passato, inizia con questa fase più o meno acustica che continua approfittando di questa compilation dal nome Emptiness Below Zero, presentata dalla Tesco Distribution, già famosa anche in ambito industrial. Questa sera ci ascoltiamo di nuovo On the When on the Moon con Tear It Apart e poi il Martial elettronico di Dernier Volonté con la traccia We Hear Us. ma senza di te. Io. Silence from above. una delle tante compilation estremamente varia, ma che hanno, che ha in comune, o meglio tutte le tracce hanno più o meno in comune, quasi un approccio neofolk svolto sia in maniera più canonica, come nel caso di On the Way, On the Moon, che come dice giustamente Serena, che saluto, era debitore del verbo Death in June. Nel caso di Dernière Volonté invece il tutto si svolge giocando un po' con un'ipotetica fisarmonica e con una base più elettronica, ma l'epicità è tipica di certe movenze neofolk. Fa un po' eccezione quello che sta andando adesso sotto la mia voce, l'altro progetto di Geoffroy Delacroix, ossia Position Parallèle, più prettamente riconducibile all'alveo del synth pop. Saluto Sisto Palombella, a proposito di fisarmonica, capita proprio a fagiolo, e Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Saluto buon Claudio che ha avuto la fortuna di vedere la Mara dal vivo a Vienna. Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Brusade è fissato che io lo chiamo Enrico, ma questa sera non mi sembra. In ogni caso ti stai sottilizzando. L'importante è che sei Brusati, il resto poi passa in secondo piano. Caro Ernesto, Holger Ferenc, lo saluto, polacco ma vivente qui a Roma. Come sono di Roma i prossimi Les Longs Adieux, progetto emergente, Frank Marelli, Federica Garenna, ma anche Valerio Michetti e Alessandra Trinity Bersiani, conosciuti soprattutto come Grazia Obliqua, ma sono instancabili musicisti. Che partecipano a una moltitudine impressionante di progetti qua e là. Si chiama Piccolo Dizionario di Parole Fraintese, dove c'è ancora di nuovo la voce molto somigliante a quella della bravissima Alice.